Ogni notte compi l'atto più misterioso dell'universo e nemmeno te ne rendi conto. Ti corichi, chiudi gli occhi e poi svanisci. Non il tuo corpo, non il tuo respiro, ma tu, colui che pensa, colui che si preoccupa, pianifica, ricorda, semplicemente scompare. E ciò che ti turberà è che non hai assolutamente idea di dove vai. Stanotte, quando ti abbandonerai al sonno, ti dissolverai in qualcosa di così profondo, così completamente al di là della tua comprensione quotidiana, che se cogliessi veramente ciò che accade, non daresti mai più per scontata la coscienza. Ma siamo stati condizionati a considerare questa morte e resurrezione quotidiana come qualcosa di ordinario. È affascinante che il viaggio più straordinario che tu possa mai intraprendere accada ogni singola notte e che tu abbia camminato nel sonno per tutta la tua vita. C'è qualcosa di piuttosto inquietante. Ogni sera compi quello che potrebbe essere considerato un suicidio volontario. Rifletti. Ciò che chiami te stesso, questo essere parlante, pensante e che fa esperienza, volontariamente entra nell'oblio. Pensa un attimo. Ci siamo talmente abituati a questa scomparsa notturna che abbiamo smesso di notare quanto sia assolutamente straordinaria. I tuoi pensieri si fermano, il tuo senso del tempo evapora, la tua preziosa identità a cui tieni tanto, con tutte quelle opinioni, memorie e preoccupazioni, semplicemente si dissolve. Eppure, in qualche modo, misteriosamente, qualcosa continua. Qualcosa che non sei proprio tu, ma non è nemmeno qualcosa che non sei tu. È come se ogni notte ti venisse data una dimostrazione di ciò che nel buddismo si definisce con il termine vuoto. Quello spazio di puro essere che esiste quando l'ego si prende una pausa. Ma ciò che è veramente affascinante è che consideriamo questo miracolo quotidiano come se non fosse nient'altro che manutenzione, come ricaricare una batteria o deframmentare un computer. Siamo riusciti meravigliosamente a rendere banale ciò che è mistico. Analizziamo questa sparizione più attentamente. Cosa svanisce esattamente quando ti addormenti? Il tuo nome non ha più importanza. Il tuo lavoro, le tue relazioni, le tue infinite liste di cose da fare, tutto svanito. Tutti quegli aspetti che pensi ti definiscano, semplicemente non ci sono più. La persona che era preoccupata per la riunione di domani, che ricordava la conversazione di ieri, che ha opinioni sulla politica e preferenze sul caffè, quell'intera sovrastruttura semplicemente si dissolve. È il più completo dimenticare immaginabile. Eppure, stranamente, non vivi questo come una perdita o morte. Non c'è senso di tragedia nel sonno profondo, nessun lutto per il sé svanito. Perché? Perché colui che potrebbe mettersi a lutto è anch'esso scomparso. Questo è ironicamente paradossale. Ogni notte dimostri che puoi esistere perfettamente bene senza essere te stesso. Infatti potresti dire che esisti in una forma più pura, più essenziale, quando tutta l'impalcatura psicologica è stata rimossa. Questo genera una domanda scomoda. Se ogni notte puoi essere totalmente senza identità, cosa questo ci rivela sulla realtà di questa identità che difendi così fieramente durante il giorno? È possibile che ciò che credi di essere sia molto meno necessario di quanto tu sia stato indotto a credere? Ora arriviamo a qualcosa di veramente sconcertante. Durante le ore di veglia c'è sempre questo senso di qualcuno che osserva. Vero? Un osservatore dietro i tuoi occhi, un testimone dei tuoi pensieri, un compagno costante che non sembra mai dormire. Potresti chiamarlo coscienza, consapevolezza o semplicemente io. Questo osservatore è così persistente, così affidabile, che probabilmente non ha mai messo in dubbio la sua permanenza. È là quando sei felice, là quando sei triste, là quando sei annoiato, là quando sei entusiasta. È l'unica costante nella tua esperienza in continuo cambiamento. Ma poi arriva il sonno, e questo osservatore perenne, questo testimone presumibilmente permanente, semplicemente non c'è. Non è inconscio. Questo implicherebbe che c'è qualcosa là ad essere inconscio. Non è assente. Questo significherebbe che c'è un luogo da cui manca. Tutto ciò è estremamente misterioso. L'osservatore stesso si dissolve nell'osservare. Cosa significa questo? Beh, suggerisce qualcosa di piuttosto rivoluzionario sulla natura della coscienza stessa. Forse questo osservatore che pensi di essere non è così solido, così permanente, così fondamentale come hai supposto. Forse la coscienza non è qualcosa che hai, ma qualcosa in cui appari temporaneamente. Come un'onda che appare nell'oceano e quando arriva il sonno l'onda si ritira nell'oceano. Ma l'oceano stesso, quello rimane. E chiediamoci, cos'è questo oceano? Questo rende tutto ancora più misterioso, perché a volte in questo stato in cui sei presumibilmente svanito, iniziano le più straordinarie produzioni teatrali. I sogni. Ora, ecco cosa dovrebbe assolutamente sconcertarti. Se sei inconscio, se quel te stesso è dissolto, chi esattamente sta creando questi sogni elaborati? Chi sta scrivendo la sceneggiatura? Chi sta scegliendo i personaggi? Chi sta progettando le scene? E, più misteriosamente di tutto, chi sta guardando lo spettacolo? Nei tuoi sogni incontri persone che non hai mai visto, visiti luoghi che non esistono, hai conversazioni che non hai mai avuto. La creatività è stupefacente, il dettaglio è notevole. La tua mente sognante costruisce interi mondi, completi di fisica, relazioni e trame che possono essere più coinvolgenti di qualsiasi produzione hollywoodiana. Ma il sognatore, colui che normalmente si prenderebbe il merito di tale creatività, è presumibilmente assente. È come se le opere di Shakespeare fossero scritte da qualcuno che aveva completamente dimenticato di essere Shakespeare. Ed ecco la parte più affascinante. Nel sogno credi che sia tutto reale. Sei convinto che il tuo sogno sia il tu reale, che il mondo del sogno sia il mondo reale. L'illusione è perfetta fino a quando ti svegli. Ora questo dovrebbe farti riflettere. Se la coscienza può creare realtà così convincenti mentre sei assente, cosa ti rende così certo che questa realtà di veglia non sia solo un altro tipo di sogno? Forse sognata da qualcosa di molto più vasto della tua mente individuale. Ora ci avventuriamo nel territorio più misterioso di tutti, il sonno profondo. Quelle ore in cui nemmeno i sogni fanno visita, quando esisti in uno stato così profondo che nulla, assolutamente nulla, sembra accadere. Qui è dove le cose diventano veramente sconvolgenti per la mente. Nel sonno profondo non ci sono pensieri, nessuna sensazione, nessuna esperienza di alcun tipo. Non c'è tempo, non c'è spazio, nessun te stesso, nient'altro. Eppure qualcosa è là. Come faccio a saperlo? Perché ti svegli rinfrancato, perché in qualche modo sai di aver dormito bene, perché c'è una chiara differenza tra 8 ore di sonno profondo e 8 ore trascorse a rigirarsi e rivoltarsi. Ma se non c'è veramente nulla là, come potrebbe esserci una qualsiasi differenza qualitativa? Questo è ciò che definisco il paradosso del sonno profondo, puro essere senza alcun contenuto. Esistenza senza esperienza, coscienza senza un oggetto di cui essere cosciente. È come un teatro con le luci spente, il pubblico andato via, gli attori partiti, eppure in qualche modo misteriosamente lo spettacolo continua. I mistici hanno una parola per questo stato, lo chiamano corpo causale, il livello più fondamentale del tuo essere. Sei tu senza qualità, tu senza attributi. Tu senza nemmeno il senso di essere tu, pura esistenza, consapevolezza di sé senza bisogno di pensarci. Ciò che è scioccante è che visiti questo stato di pace perfetta, completezza perfetta, essere perfetto, ogni singola notte. La cosa stessa che si cerca nella meditazione, nella filosofia, nella religione. Tu la vivi naturalmente ogni volta che cadi nel sonno profondo. Lo scherzo cosmico è che l'illuminazione ti addormenta. Ora ci stiamo avvicinando a qualcosa che potrebbe turbare il tuo senso di sé costruito con cura. Perché ciò che il sogno rivela è questo. La coscienza non ha bisogno di te per esistere. Testo di Alan Watts. Traduzione dall'inglese di Adiyogi.